sono ancora Pubblico Zero con noi, ci accompagneranno fino alla fine della trasmissione e quindi continuiamo a sentire cosa hanno da raccontare, perché in quel di Vigevano ci sarà un altro tipo di mentalità hip hop. Bella lì.